honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, "Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo." Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Doot, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo." E buongiorno a tutti e tutte, questa è la sesta puntata di Mamma Trona con qualche minuto di ritardo. Oggi gli argomenti saranno molti, parleremo di queer, di omofobia, lesbofobia, antisessismo e avremo tanti e tante ospiti. How'd you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. If you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. stay for the night. Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Buongiorno a tutti e a tutte. Le canzoni hanno subito incominciato a parlare di omosessualità nel momento in cui è venuto fuori questo fenomeno alla luce del giorno. Risale il primo disco militante, risale al 73 ed è di Gian Pieretti e si intitola Il vestito rosa del mio amico Piero, dove in questo disco si denuncia l'infelicità di un ragazzo che vive in un ambiente di provincia e si sente, sente su di sé il senso di colpa, crisi depressive. E in un certo senso, diciamo, è qualcosa di... La canzone vuole un po' suscitare dei sentimenti di pietà, in realtà. Anche perché, insomma, all'inizio questa poteva essere un modo anche per far accettare, nonostante, per far accettare la cosa a livello pubblico. Poi sempre nel 73 c'è Renato Zero, che nonostante comunque non abbia mai chiarito il suo impegno militante, ha fatto una serie di canzoni su questo tema, come Salvami, come Mi vendo del 77. E, insomma, poi in seguito abbiamo i Pooh, che con la canzone di Pierre negli anni 80 parlano proprio di questo ragazzo vestito d'angelo e d'assassino, con questo trucco un po' invadente. In seguito Baciami Alfredo e di Ornella Vannoni, La storia di Marcello nel 77. Quindi, insomma, successivamente ci sono state una serie di canzoni, poi ricordiamo molto carina nel 78 Sbattiamoci di Renato Zero, che bello, che è molto interessante, dice dai su sbattiamoci, dai su perquisiamoci, e finisce con una tragica scoperta. E, insomma, finiamo tutto, insomma, questa brevissima carrellata con una canzone che originariamente è del 50, però è stata riproposta da Ivan Cattaneo nel 73 con Coccinella. Pride nel 69, il primo Pride nel 69 a Stonewall è proprio la prima rivolta in cui gli omosessuali perdono la rassegnazione, la faccia triste, il volto rassegnato delle persone emarginate e si incazzano. Silvia Rivera lancia il primo tacco a spillo contro la polizia e nasce appunto il Pride, l'orgoglio di essere omosessuali e che quindi di combattere le discriminazioni e non subirle. Quindi questo è quello che poi dà il via a tutte queste canzoni che piano piano progressivamente passano dall'essere tristi e emarginati e piangere perché si è tristi e emarginati, e invece sono incazzate, orgogliose e rabbiose perché le discriminazioni vanno abbattute. Yeah. E cambiamo genere, adesso parliamo un po' di reggae. Reggae che in questi anni ha visto molti cantanti parlare appunto degli omosessuali o delle lesbiche in maniera veramente triste, diciamo, da ascoltare, perché cantanti come Buju Banton o Sizzla o tanti altri nelle loro liriche purtroppo, oltre a mostrare, diciamo, delle note omofobe, anche sgradevoli da ascoltare. Qui a Roma dal 2007 al 2008 ci sono stati vari comitati di boicottaggio di questi cantanti, anche ben riusciti. Purtroppo però quello che dobbiamo dire è che i soldi a volte valgono molto più di alcuni valori, e quindi anche chi millanta l'antifascismo, l'antisessismo di qualsiasi sorta, poi alla fine si trova addomesticato rispetto al denaro, e quindi comincia a dire beh, anche se non canta delle canzoni omofobe, può cantare se non diciamo, non dice appunto quelle cose. Invece a noi non va bene, non ci piace quel tipo di reggae, ma sappiamo che dalla storia del reggae delle canzoni bellissime hanno attraversato l'Italia, la Giamaica e tutto il mondo. E appunto, parlando d'Italia, ci piace parlare degli Africa Unite, che sono un gruppo appunto che da più di 20 anni che ha portato queste note nel nostro paese, e che appunto con Così Sia, una canzone che si schiera contro l'omofobia e che adesso vi faremo ascoltare, proprio perché uno, ci piace questo tipo di reggae, e due, è veramente forte, una presa di posizione che ci piacerebbe che tutti e tutte quelli che fanno reggae una buona volta la prendessero nettamente. Il frutto di un segreto, un costruito e nascosto, il peso di un'identità mai mostrata a pieno. E cresce un vento ogni giorno, non distrae il suo sguardo, ma il suo vero essere è ispirato, dipinge lo stupendo ritratto di un diverso essere. Solita storia già scritta, pregiudizi e tabù che non accetterò. Condanno regole insensate di parte, corro e costruisco il mio futuro. Che sia diverso, diverso dai frustranti cliché imposti ogni giorno. Sia diverso, diverso dai diversi petto, impegni di risposta. Sia diverso, diverso dalla sensualità che non mi rappresenta. Sia diverso, diverso perché diversità non sia considerata colpa mai. Pensi sia malato, infetto da un virus mortale, scarsa integrità, il moralismo genera violenza. Violenza cieca, non certo forzo virilità. Omofobo perdente, il pregiudizio è falso inutile, rispetta il tuo simile. Non esiste un'unica direzione, nessuno può imporre Ciao, noi siamo di Queer in Action, un'associazione culturale che organizza rassegne cinematografiche a Roma. E prima di parlare un po' di quello che facciamo, spiego un minimo cosa si intende oggi per queer, visto che è quello che abbiamo scelto anche come nostro nome. Diciamo che all'inizio la parola queer in inglese era un insulto, voleva dire più o meno frocio, però in seguito molti se ne sono riappropriati e ne hanno fatto, diciamo, una bandiera anche militante spesso. Tant'è che poi si sono sviluppati soprattutto nelle università statunitensi, ma sempre più anche europee, dei queer studies, cioè un vero e proprio disciplina universitaria che mirano soprattutto a rileggere la cultura occidentale a livello letterario, politico, sociale, mettendo in discussione determinate categorie fisse che fanno riferimento all'identità sessuale, ma anche all'identità di genere. Quindi diciamo che oggi per queer si intende soprattutto una posizione di critica e riflessione nei confronti di queste etichette stereotipate che non riguardano soltanto l'amore, la sessualità o comunque l'identità eterosessuale, ma anche omosessuale, perché molto spesso anche quella diventa stereotipata e soggiace, diciamo, al potere fondamentalmente, e a un sistema che attraverso una serie di discorsi impone determinati modi di essere. Lo scopo sarebbe quello di liberarsi di questi condizionamenti e quindi scoprire un proprio modo di essere gay, etero o qualsiasi altra cosa, insomma, di vivere la propria sessualità liberamente. Nello specifico, come associazione, noi organizziamo rassegne di cinema queer, quindi rassegne in cui figurano film che stimolino una riflessione di questo genere. Allora, vorremmo fare una domanda al nostro caro ospite. Insomma, abbiamo più o meno abbiamo capito che queer è uno stato, una sorta di uno stato di apertura in cui uno cerca di sfuggire da quelle definizioni e cerca di trovare una definizione di se stesso che sia al di fuori da quel binomio uomo-donna, etero-omosessuale. Vorrei fare una domanda a questo proposito. Questa cosa si potrebbe definire positiva da un certo punto di vista. Però c'è una tendenza, la tendenza del fatto che, insomma, sta diventando quasi un fenomeno di moda. Insomma, pensiamo ai metrosessuali, quindi come il gay nella moda, nei media, è diventato quasi una sorta di tendenza, e che da una parte può creare una sorta di normalizzazione dell'omosessualità, quindi un'accettazione popolare, consumistica dell'omosessualità, però dall'altro punto di vista ripropone quelle che sono le categorie, anche se è una categoria diversa. Io volevo chiedere a te se, insomma, cosa pensi di questo fenomeno culturale? Cioè, se lo identifichi come positivo, negativo, insomma, o come lo identifichi? Ma io penso che questo tipo di critica sia assolutamente positiva, nel senso che le etichette esistono e sono sicuramente funzionali al sistema. Esiste ormai tutto un mercato che è diretto anche alla comunità gay, ammesso che si possa parlare di una comunità gay chiusa e identificabile come tale. Però effettivamente sì, le mode esistono e non scampano né il gay, né gli etero, né le trans o i trans che dir si voglia. Quindi cercare di demistificare tutto questo, vedere i confini tra diverse identità di genere o identità sessuali, orientamenti sessuali, in maniera più fluida, in modo da sottrarsi al ricatto del consumo, del mercato e quindi poi del potere, è assolutamente un percorso positivo. E poi c'è da aggiungere che queer è anche profondamente politico, nel senso che la cosa centrale che ha mosso l'analisi queer era quella non solo e non tanto di creare una nuova categoria, ma anzitutto prendere consapevolezza che le categorie erano di per sé una forma di controllo. Questo nasce anche dagli studi foucaultiani degli anni 70 a Parigi, per cui si cominciava a decostruire l'idea per cui la sessualità dovesse subire, passare attraverso una definizione, e quindi passare dall'idea che ognuno deve rientrare in uno schema perché gli schemi possono essere controllati, all'idea che ognuno possa viversi la propria sessualità fuori dagli schemi. Importante che queer non diventi omologante nei termini in cui tutti sono queer. Queer deve essere una posizione politica, è profondamente politica di critica. Poi ognuno può e deve continuare a definirsi, e a definirsi con mille parole diverse, perché con le parole noi comunichiamo agli altri, se no rimaniamo chiusi dentro noi stessi. Noi dobbiamo definirci io sono Frocio, definire la nostra sessualità, il nostro orientamento sessuale, la nostra identità di genere, e in questo definirci queer nei termini in cui prendiamo una posizione politica di critica alla definizione, insomma. Perché queer è ricercare la complessità, che abbiamo scelto appunto il cinema come strumento di, per fare politica e per trasmettere questa, questa questione nella città di Roma. Pensiamo che di feste ce n'è tantissime, di luoghi dove ritrovarsi ce n'è molti, ma invece luoghi dove approfondire, dove fare elaborazione ce ne sono molto pochi, e quindi più che con la parola e con le analisi verbali, il cinema è uno strumento per veicolare le questioni queer e per mettere in discussione anche nell'immaginario, quindi anche nell'immaginario visivo delle persone, quella che è la sessualità, discuterne, aumentare i livelli di complessità e per questo coltivare la cultura queer in questa città, insomma. Sappiamo che avete avuto delle difficoltà a proiettare i vostri film alla Sapienza, ci sono state delle opposizioni, e l'anno scorso insomma è sorta una polemica in piazza a Roma, il Pride a Roma è stato diviso, cioè è stata una frattura intensa. Volevo dire insomma cosa ne pensavi riguardo questa cosa. Guarda, l'anno scorso è stato un anno molto complicato sia per quello che abbiamo fatto alla Sapienza che poi per il Pride romano. Per la Sapienza noi dovevamo fare una rassegna queer dentro appunto il pratone della Sapienza, e due giorni prima che partisse questa rassegna Frati ci ha ritirato l'autorizzazione, fra l'altro dando delle motivazioni assolutamente assurde. Il problema è, chiunque conosca Frati lo sa benissimo, che non voleva avere problemi con insomma alcuni poteri che si potevano infastidire in qualche modo del fatto che noi proiettassimo in un luogo come quello della Sapienza dei film a tematica queer e che quindi coltivassimo la complessità. E la stessa cosa poi è venuta anche per il Pride romano, in cui delle associazioni, alcune associazioni romane si sono impossessate di quello che storicamente era un Pride piuttosto critico rispetto a come si chiama, alla situazione nazionale, e che hanno veicolato un'idea di Pride romano assolutamente trasversale, cioè anche aperto alla destra, anche aperto, come si dice, a delle aperture che la destra non ha mai fatto, e che quindi implorando, portando l'acqua con le orecchie a quei poche anime che nel centrodestra pensano di potersi aprire alle questioni queer, insomma. Ma come la vedi questa apertura della destra nei confronti dell'omosessualità? Cioè, la vedi come un fattore positivo o una sorta di appropriazione magari di certe critiche che poi sono sempre state della sinistra, critiche anche al sistema eterosessuale o dell'eterosessualità normalizzata? Guarda, io trovo terribilmente tristi le persone che di destra sono e si dichiarano omosessuali e vogliono fare questa battaglia. In realtà nella destra quella che conta, quella importante, queste questioni sono assolutamente marginali, nemmeno marginali, sì, nemmeno trattate. È la speranza di qualche sfigato di destra che spera che nel proprio partito o nella propria area politica si possa aprire la questione. Una destra liberale in Italia non c'è mai stata, la destra in Italia è sempre stata o cattolica o fascista, e queste due culture di sicuro prevedono l'omosessualità come marginale e da immaginare. Quindi la destra liberale in Italia non c'è mai stata, e né a oggi si pone la questione di riaprirla, tant'è vero che quei pochi spazi che si pensava ci fossero dentro quell'area che oggi è confluita in FLI si va a alleare con l'UDC, che è il partito più omofobo che abbiamo dopo la Lega, insomma, per cui assolutamente la destra è pronta a sacrificare le questioni. Quei pochi che pensavano di poter aprire la questione sono pronti a sacrificarla sull'altare di accordi politicisti, quindi è solo qualche sfigato di destra che vorrebbe aprire le questioni. Non solo, il problema è che quando questo discorso entra nell'ambito della politica di destra si rischia di agganciarlo a altri temi. Ultimamente si parla anche di omonazionalismo, soprattutto in Nord Europa, e cioè della reazione di una parte della comunità omosessuale che si sente minacciata dai flussi migratori provenienti soprattutto dai paesi islamici, e sostiene che siano questi a portare l'omofobia nei loro paesi, come se l'omofobia non fosse già un problema interno con il quale fare i conti da italiani, da europei comunque. Quindi in realtà il modo in cui poi l'apertura verso la comunità GLBTQI viene gestita all'interno della destra rischia di generare altri razzismi, è pericolosa da questo punto di vista. Yeah. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta, ora non posso, vado di prescia, forse ritorno, ma non è una promessa, vado di fretta. Sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa. Gino e me stessi punti di vista. Per adesso mi basta. Sono gay, non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi, oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei, mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei, sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei, che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sono gay, sì, sono gay, non sono gay, ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai, o non vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale, o al caso migliore, un giullare fenomeno da paracone, e lo tollererai su un quanto eccezione, e lo tollererai su un televisione, lo chiamano gay, e tu pensi ricchione. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile, ma di Gino io mi fido un po' di più. Ed era proprio questa la canzone che ci ha portato nel 2007 in piazza un milione di persone contro il Family Day e una critica al centro-sinistra. Oggi sembrano cose, come si dice, dell'altro mondo, invece eravamo in piazza un milione di persone per cambiare la propria condizione di vita. Lì chiedevamo i Dico, chiedevamo e volevamo essere una persona in più del Family Day per poter portare a casa un risultato che era storico. Fra l'altro questo ci racconta anche del fatto del fallimento di un'idea del movimento gay concertativo che chiedeva sempre a ribasso prima i Pax, poi i Dico, poi i CUS, giocando a ribasso per 10 anni, 15 anni, il risultato è che oggi non abbiamo niente e quel milione di persone in piazza non ha cambiato veramente le condizioni materiali delle persone. Però quest'anno abbiamo un'altra opportunità molto grande, che è l'Euro Pride a Roma, affidata al Mario Mieli, che vedrà non solo un corteo molto grande che dovrebbe finire, insomma, nelle nostre prospettive in una piazza molto grande a Roma, ma soprattutto una 12 giorni a Piazza Vittorio, nel luogo più multietnico della città, nel luogo dove storicamente si sono anche rifugiati i fasci, e quindi andare là, riappropriarsi degli spazi, riappropriarsi per 12 giorni, trasformare quella piazza che di solito è una piazza complessa e complicata in una piazza che invece è colorata, e mischiarsi in quella città e con tutte le altre identità che ci sono, e ovviamente appunto praticare l'antifascismo è una grande sfida che quest'anno l'Euro Pride ci offre, insomma 12 giorni di militanza non fatta nelle assemblee ma fatta con il corpo, fatta con la presenza, fatta con riempire quella piazza di froci e di trans da tutta Europa, insomma un evento meraviglioso. Ma noi di Queer in Action vi diamo appuntamento per marzo-aprile, appuntamento si fa per dire perché la stiamo organizzando, la prossima rassegna sarà comunque con ogni probabilità al Pigneto tra metà marzo e inizio aprile, e faremo in modo di farci sentire, insomma. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. E la rassegna si intitolerà Beyond, cioè oltre, e stimolerà una riflessione su quella che è la differenza tra desiderio e piacere, su quanto il piacere sia un'esigenza di ognuno che non può essere irregimentato dentro nessun tipo di vincolo, e quindi porti spesso le persone ad andare oltre, sempre alla ricerca, a volte anche autodistruttiva, altre volte invece foriera di soddisfazioni. On such a time. Timeless flight. Cold as hell, and the there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job. E questa era Rocketman di Elton John. Parliamo di glam rock, un genere che nel 1970, dal 70 al 75, ha visto grandissimi artisti appunto impelagarsi in questo genere, che non è solamente musicale ma anche visivo, scenografico, pieno di lustrini e di colori. Ma non solo, le tematiche che affrontavano in quel periodo erano anche molto forti. Ad esempio, Mamma Trona oggi ha deciso di iniziare con Take a Walk on a White Side di Lou Reed, che sta nel CD Transformer, che è uno dei CD più importanti appunto del genere glam rock, e in cui appunto parla di tutto l'entourage che c'era nella Factory di Andy Warhol, delle attrici trans e insomma tutto quello che c'era lì intorno. Ora la canzone che stiamo per ascoltare è di David Bowie, che è una delle altre icone del glam rock, e appunto con sempre 1972 con Ziggy Stardust, che è questo suo alter ego androgino che appunto fa la rock star, fa parte appunto della storia del glam rock. Ascoltiamo Ziggy Stardust, di parole insomma ne ho anche dette troppe, andrebbe ascoltata e basta. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo, the kids were just crass. He was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Allora, dopo aver ascoltato l'esperienza del percorso di Queer in Action, invece ascoltiamo un'esperienza personale anche rispetto alla situazione italiana, comparata al resto d'Europa e agli Stati Uniti. Ciao, io sono Martin, sono originariamente degli Stati Uniti e volevo raccontarvi un po' le mie impressioni della situazione per gli omosessuali e per gli LGBT qui in Italia. Una cosa diciamo che mi stupisce o che mi sorprende un po' dall'Italia è il fatto che diciamo il rapporto fra Stato e Chiesa qui, che è una cosa che non mi aspettavo di vedere in modo così particolare. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è una separazione molto chiara fra lo Stato e la Chiesa, e questa è una cosa che va protetta sempre. Invece qui in Italia, anche diciamo per motivi della vicinanza fisica fra il Vaticano e il governo italiano, ovviamente c'è un'influenza molto, molto chiara, molto visibile della Chiesa sullo Stato, e questo ovviamente secondo me ha creato una situazione particolare per quanto riguarda la comunità LGBT qui in Italia, no? Perché ovviamente è molto, diciamo, la Chiesa secondo me ha un effetto molto, molto forte sugli atteggiamenti dei romani, degli italiani in genere, e anche sulle leggi che vengono fatte o che non vengono fatte qui. E quindi secondo me questo potrebbe essere un ostacolo particolare, anche per esempio per quanto riguarda la mia esperienza in Spagna, perché la Spagna ovviamente è un paese molto simile all'Italia in alcuni sensi, nel senso che è un paese storicamente cattolico, un paese storicamente anche molto maschilista, ma che in genere è arrivato a superare molti di questi pregiudizi, dove diciamo gli atteggiamenti sono cambiati radicalmente negli ultimi anni, anche le leggi sono cambiate in modo abbastanza positivo. La Spagna invece si trova un po' sull'avanguardia del mondo secondo me per quanto riguarda la situazione legale per la comunità LGBT, e quindi io trovo che questa situazione in Italia sia un po' particolare in quel senso. Comunque non dovrei generalizzare in modo assolutamente negativo, perché poi anche se gli atteggiamenti qui forse sono diversi, trovo che la comunità qui è anche abbastanza forte, ci sono molti gruppi di militanti, di attivisti, di gente che sta lottando per migliorare la situazione, e quindi questa è una cosa ovviamente molto positiva. Allora, ringraziamo Martin per la tua, diciamo, per il tuo contributo, e continuiamo con il glam rock, con un altro gruppo, i Queen, sempre 1972, ascolteremo Seven Seas Rye, presa proprio dall'album Queen 2. Adesso invece parliamo di un film, Velvet Goldmine, 1998. Riesce in quasi documentario a prendere tutte le tappe del glam rock come cultura. Si ispira alla vita di David Bowie, anche se lui non ha mai riconosciuto questo fatto, ed è contornata da una colonna sonora fantastica, da T-Rex ai Radiohead, che ricantano canzoni sia di David Bowie che appunto dei Roxy Music, e contornata anche da frasi di aforismi di Oscar Wilde. Quindi diciamo l'argomento principale è questo amore tra i due musicisti, uno dei quali interpretato da un ottimo Ewan McGregor, e quest'oggi vi facciamo sentire una canzone di T-Rex che è 20, 20th Century Boy, ma cantata dai Placebo, prima di diventare famosi con poi la celeberrima Pure Morning. Adesso sentiamo una canzone delle Bikini Kill, che sono uno dei primi gruppi di Riot Girl che ci sono stati, insomma, sono partite dall'America ma poi si sono moltiplicati in tutta anche in Europa, anche in Italia. In particolare volevo ricordare di Kathleen Anna, che è l'ideatrice più o meno stata delle Bikini Kill e poi delle Tigre, il cui primo lavoro è stato una fanzine chiamata Revolution Girls and Now e che poi appunto ha dato vita al gruppo delle Bikini Kill. Un aneddoto interessante sulla sua storia è che comunque ispirò praticamente il titolo di Smells Like Teen Spirit di Kurt Cobain, in quanto proprio per prenderlo in giro gli scrisse questa frase sotto casa, in quanto voleva dargli dell'adolescente che ancora usava il deodorante. Invece Kurt Cobain non capì la presa in giro e lo usò come titolo per la canzone, che poi è una delle canzoni più famose appunto che ha scritto. Ora partiamo con Rebel Girl, che appunto parla di una ragazza in un quartiere che fa impazzire il vicinato, diciamo. We'll be right back. adesso leggiamo un passo del testo Yankee di Beatrice Preciado, che parla proprio della costruzione del genere. Piccole donne, il coraggio della madre, la pillola, cocktail stracarico di estrogeni e di progesterone, l'onore delle vergini, la bella addormentata nel bosco, la bulimia, il desiderio di un figlio, la vergogna della deflorazione, la sirenetta, il silenzio di fronte allo stupro, Cenerentola. L'immoralità ultima dell'aborto, i dolci, saper fare un buon pompino, il Lexotan, la vergogna di non averlo ancora fatto, via col vento, dire no quando si vuol dire sì, restare a casa, avere delle piccole mani, le ballerine di Audrey Hepburn, il Buscofen, prendersi cura dei capelli, la moda, dire sì quando si vuol dire no, l'anoressia, sapere tra sé chi ti piace veramente, la tua amica, la paura di invecchiare, la necessità di essere costantemente a dieta, l'imperativo della bellezza, la cleptomania, la compassione, la cucina, la sensualità disperata di Marilyn Monroe, la manicure, non fare rumore quando cammini, non fare rumore quando mangi, non fare rumore, il colore, il cotone immacolato e cancerogeno del Tampax, la certezza della maternità come legame naturale, non saper urlare, non sapersi battere, non saper uccidere, non sapere troppe cose o saperne molte ma non poterlo dire, saper attendere, l'eleganza discreta di Lady Di, il Prozac, la paura di essere una cagna in calore, il Valium, la necessità del tanga, sapersi controllare, lasciarsi inculare quando ci vuole, rassegnarsi, la giusta epilazione del pube, la sete, i sacchettini di lavanda che sanno di buono, il sorriso, la mummificazione vivente del viso liscio della gioventù, l'amore prima del sesso, il cancro al seno, essere una donna vissuta, che tuo marito ti lasci per una più giovane. E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei, ma so che lei no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi, poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, nasce un po'. E ora la parte sugli uomini. Il calcio, Rocky, portare la mutanda, saper picchiare qualcuno, Scarface, saper alzare la voce, Platoon, saper uccidere, i mezzi di comunicazione, l'ulcera allo stomaco, la precarietà della paternità come legame naturale, la tuta blu, il sudore, la guerra, versione televisiva inclusa, Bruce Willis, l'intifada, la velocità, il terrorismo, il sasso per il sesso, eccitarsi come Rocco Siffredi, saper bere, guadagnare soldi, Home Prazzol, la città, i bar, le puttane, il box, il garage, la vergogna di non avercelo come Rocco Siffredi, il Viagra, il cancro alla prostata, il naso rotto, la filosofia, la gastronomia, avere le mani sporche, Bruce Lee, pagare una pensione alla tua ex moglie, la violenza coniugale, i film d'orrore, il porno, il gioco, le scommesse, i ministeri, il governo, lo Stato, la direzione dell'impresa, gli affettati, la pesca, la caccia, gli stivali, la cravatta, la barba di tre giorni, l'alcol, l'infarto, la calvizie, la Formula 1, il viaggio sulla luna, ubriacarsi, impiccarsi, i grossi orologi, i calli alle mani, stringere l'ano, il cameratismo, le crasse risate, l'intelligenza, il sapere enciclopedico, l'ossessione sessuale, il don giovannismo, la misoginia, essere uno skin, i serial killers, l'heavy metal, lasciare la propria donna per una più giovane, la paura di farsi inculare, non vedere più i propri figli dopo il divorzio, la voglia di farsi inculare. give a bit of to me, and I'll give a bit of to you. Give a bit of to me, and I'll give a bit of to you. And your eyes like a laser, every time get me deeper. Soprattutto ciao a tutte. Io, in quanto francese, vi volevo far ascoltare una canzone, quindi in francese. Però l'autrice, che si chiama Ariane Moffat, non è per niente francese, è canadese. E alla fine lei dice praticamente che i francesi sono troppo conservatori rispetto ai canadesi, e quindi niente. L'album si chiama Je veux tout, quindi voglio tutto. Ti voglio amare in tutti i sensi, è una canzone molto famosa, e mo vi facciamo ascoltare questa canzone Je veux tout, che praticamente bisogna dire che Ariane Moffat è una super lesbica, super figa, super bella, e quindi mo la ascoltiamo. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je veux le le régime et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux ici, je veux tout, tout de suite. Mamatrona volge quasi al termine e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, giovedì prossimo, dove parleremo di Berlino, perché insomma c'è chi viene, c'è chi se ne va, c'è chi torna. E, insomma, la nostra Mamatrona andrà via a Berlino. E, niente, quindi è la prossima puntata. La dedichiamo tutta, insomma, a chi viene e chi va e chi ha scelto Berlino. E adesso chiudiamo la puntata di Mamatrona con Freddie Mercury, Living on My Own, in un CD Bad Guy del 1985. Purtroppo a noi ci è arrivata tutta remixata, diventata famosa nel 1993. Noi però quest'oggi vi facciamo ascoltare quella del 1985, appunto all'interno del CD Living on, Bad Guy. Living on my own, Freddie Mercury. Posso dirlo? Il più grande di tutti. Il re. La regina, anzi, la regina. Da qui.